Oggi il salamino si affida alla onoterapia. Stiamo a posto. Bisogna pur dirlo, qui ci vuole un po' di liceo classico, col greco si capisce tutto, perché onos vuol dire asino, somaro, ciuccio, che dir si voglia, scecco ancora una volta, e dell'onoterapia se ne è occupato in un pezzo straordinario Paoli Sotta sul Corriere del Mezzogiorno, raccontando della città degli asini che si trova a Polverara vicino Padova e che vengono utilizzati, anzi rispettosamente si chiede all'asino la possibilità di intervenire nella cura, nella terapia delle malattie, diciamo, della malinconia, della depressione, dell'autismo, una cosa straordinaria. E quindi questo pezzo ve lo leggerei per intero, ma vi affido tutti alla ricerca su internet, perché c'è il racconto dove a un certo punto lui dice: mentre parlavamo nello stabio, una bellissima femmina color nocciola, Cleopatra, si è staccata dal gruppo e mi ha leccato la mano. Anch'io sono stato scelto. E dice lui: noi napoletani dovremmo scegliere la città degli asini e farne una mobilitazione affinché tutti sappiano che l'asino cura al meglio qualsiasi malinconia. Questo è sicuro. Fantastico. e intanto, a proposito di malinconia dei senatori, molti ci scrivono, qualcuno senza firmarsi, niente indennità, solo rimborsi. E poi c'è qualcuno paga. Qualcuno paga. E poi c'è Pietro che dice: la barbaruna nazionale è più che sufficiente. Dica alla Tardelli di non scimmiottarla. Caro Pietro, noi la Barbarona non sappiamo chi è. Chi è la Barbarona? Quindi... Ma una cosa... Noi conoscevamo Barbarella, punto. Sarà Barbara Palombelli? No, Barbara. Barbarona nazionale. Vabbè, se ci vuole dire l'SMS, il numero lo sai, 349-238-6666. Che facciamo? Un po' di bolle. Andiamo con le bolle. Cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation. Credevate solo voi di essere passatisti, eh? Qui. Però questo pezzo era bello, anzi, bello. Allora, Giovanni, deflazione. Gli analisti prevedono un ulteriore calo dell'indice dei prezzi. Stamattina vediamo, dovrebbero essere diffusi nuovi dati sull'eurozona, ovviamente. E tra qualche ora dunque lo vedremo. A quel punto ci sarà materiale per la Banca Centrale Europea sul quale riflettere e eventualmente agire. Il problema è che i tassi sono già a 0,25. Possono fare zero, sì, però insomma anche le ultime cose che sono successe nel mondo dell'economia dicono che un ulteriore livello abbassato dei tassi potrebbe non portare alcun beneficio. Addirittura c'è chi dice che bisogna portare al negativo, tipo Jens Weidmann della Buba. Però la Buba è la cara vecchia Bundesbank. Certo. Per dire. Però bisogna aspettare e vedere. Intanto sarà curioso, perché noi questa cosa l'abbiamo seguita fin dall'inizio nella nostra trasmissione. Sempre. L'avevamo pure detto, non è facile in questi casi azzeccarci. Forse siamo stati fortunati. Vero buttafuoco a faccenda. Cosa stai facendo? Sto facendo vedere ai nostri ascoltatori quanto sei bello. Fra poco arriverà un tweet. Allora, io prendo. Voglio la licenza per farlo secco. Va bene, ok. E intanto andiamo in Francia. Andiamo in Francia. On va danser le long du golf clay. Credevate di essere passatisti solo voi? Sciastrene, la merda. Allora, e la destra in Francia ha vinto, no? Lo sapete tutti, è stato un fine settimana molto importante dal punto di vista elettorale in Francia e in altri luoghi, di cui poi vi racconterà anche Pietrangelo. C'è solo una conferma, che la gauche caviar continua a non capire nulla di quello che sta succedendo in Europa. E dunque? E allora... Poi si difende l'euro nel peggiore dei modi e c'è chi dice che l'euro non vale una lira. È Mario Giordano. Salve Mario. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questo tuo libro, l'euro non vale una lira, perché non vale una lira l'euro? perché da quando c'è l'euro gli italiani si sono impoveriti, non vale una lira perché è stato costruito male, perché è stata un'avventura folle. Questo credo che ormai sia patrimonio consapevole di tutti, lo dicono anche i più grandi difensori dell'euro. E la domanda è che bisogna cambiare, credo che questo è la domanda che viene anche fuori dalle elezioni francesi, credo che sia, e che verrà fuori in tutta Europa, credo che sia evidente. Il problema a questo punto è chiedersi se ce la fa questa Europa a cambiare o no. Ecco, questa ma... è l'analisi che bisogna fare, Mario. Seriamente. Io sono molto scettico sulle possibilità di cambiamento, ma che così non funzioni è talmente evidente a tutti che credo che... Vabbè, ma forse più che l'euro il problema non sono gli eurocrati, cioè l'applicazione degli accordi? Sono due cose, però guarda, come hanno spiegato dal professor Guarino ad altri esimi esperti giuristi ed appunto economisti, è la costruzione degli accordi. In sé gli accordi di Maastricht non sono accordi che prevedono la crescita dell'Europa. Sono due problemi distinti. Una è il problema dell'euro, della moneta, l'altro è il problema dell'Europa, di come è stata costruita. Il problema è, e questo alcuni grandi studiosi in Francia, proprio in Francia, la fin de rêve européen, la fine del sogno europeo di François Heisburg, proprio di quest'autunno, dice che l'errore di costruire questo tipo di euro rischia di portare alla fine il sogno europeo. Ecco, quindi Mario, sono due problemi ma strettamente connessi. Mario, una domanda finale, c'è se Mario Seghe che vuole farti una domanda. Vabbè, te la faccio secca, Mario, ma uscire o no? Io sono convinto che sia possibile uscire e che forse ne saremo addirittura costretti. Intanto bisogna cominciare a discuterne in modo razionale, non mettendo l'euro, come ogni tanto viene fatto, come una divinità, sì, come un totem indiscutibile. Cominciare a discutere in termini razionali senza dare del demagogo, del populista a chi dice proviamo a chi ha delle obiezioni, ragionarci. Sarebbe già un passo avanti ed è il motivo per cui ho scritto questo libro. Ecco, anche Guarino parla di un euro. Diciamo della zona del Mediterraneo. C'è Pietrangelo che ti vuole fare una domanda rapidamente. Eccomi. L'euro ha massacrato il cosiddetto popolo della partita IVA, ma perché secondo te Berlusconi invece non si è schierato contro l'euro e invece lo difende? Questo bisognerebbe chiederglielo a lui, nel senso che io sono convinto che il popolo della partita IVA sia quello, come dici tu, che ha avuto il danno peggiore da questa Europa che è completamente folle. Perché non si schiera non lo so, però io credo che alle elezioni il messaggio anti-europeista verrà sarà fuori fortemente. Bene. Grazie Mario, grazie a voi, buona giornata. Andiamo avanti con le bolle. Secondo me però c'è un salamino turco. E appunto, dopo la Francia, la Turchia. Ho letto un'intervista strepitosa di Malcolm Pagani sul Fatto ad Antonio Ricci, da dove ho ricavato la morale della favola. Bellissima. Da dove ho ricavato la morale della favola. Che c'entra Ricci, Malcolm Pagani, con la Turchia? C'entra, perché a un certo punto Ricci dice una cosa che secondo me dovrebbe essere studiata nelle facoltà di scienze della politica, quando dice: giornali e tweet non producono ascolti. Se facciamo un salto e andiamo dalla TV alla realtà delle cose, della politica, ripeto che giornali e tweet non producono risultati politici, tant'è vero che a leggere i giornali in Italia sembrava che fosse finita per Erdogan, e sì, invece vero, Erdogan ha stravinto, perché non facevamo altro che leggere questi glamour tweet che venivano lanciati dalle proteste, dalle rivolte, da questo immenso teatro valle occupato che si era trasferito sul Bosforo. Il ceto medio twitter il ceto medio twittarolo, dal riflessivo a twittarolo, che fanno i loro girotondi. E c'è anche un'altra riflessione di Ricci che trasferiamo nella politologia, dove diceva che comunque è un surrogato dell'onanismo e non uso un'altra immagine. E quindi Turchia. Andiamo in guerra, Mario. Andiamo in guerra? Dai, su. Io non posso più assistere inerte all'infiltrazione comunista, alla sovversione comunista, alla propaganda e a questa cospirazione comunista internazionale per diluire e contaminare ogni nostro umore vitale più prezioso. Che bello il dottor Stranamore, la sua convinzione granitica che tutto debba essere bianco o nero. E vabbè, comunque, noi di guerra fredda in fondo parliamo, anche se tutti dicono che non c'è, che non esiste, che non sono i tempi della cortina di ferro, però, insomma, non è che stiano proprio messi bene. Kerry e Lavrov si sono visti, hanno parlato per 4 ore a Parigi e non hanno combinato niente, nel senso che i colloqui sono andati male, la Russia propone una soluzione di federazione, gli Stati Uniti pensano che questa mini la sovranità, forse dal loro punto di vista è giusto, però consideriamo anche la posizione del Cremlino. Tutti chiedono il ritiro delle truppe dai confini dell'Ucraina, però non è che hanno sconfinato, sono al confine, diciamo. Sono lì e sono rimaste lì. Sono lì e rimarranno là. Faranno, e in Libia come andranno? Faranno un altro giro di tavolo. In Libia tutti dentro, senti qua. Io mi chiedo se è ancora utile investire tante energie per l'applicazione delle leggi. O se invece, rinunciando a vacue speranze e ad aspettative mai ripagate, non ci convenisse accettare l'ingiustizia come regola e non come eccezione. Questo nella speranza, ovviamente, che almeno l'ingiustizia sia uguale per tutti. Il grande Alberto Sordi. Un film che raccontava già tutto quello che sarebbe poi avvenuto. No, in Libia va male perché c'è una causa per Società Generale, 58 milioni di tangenti per un business da 2 miliardi, vedremo come andrà il processo, però era molto curiosa come notizia. E intanto il canzoniere. Quando l'automobile del sindaco di Nuova York, una bella Pontiac grigia avuta in prestito per l'occasione, si fu fermata all'ingresso del villaggio di Snello, il signor Impelletteri e la signora furono scesi nel frastuono degli applausi e della banda municipale, nella confusione dei carabinieri, dei motociclisti, del seguito dei giornalisti, dei fotografi, dei curiosi, degli infiniti cugini, procugini e parenti, dei borghesi, dei contadini, dei pastori, delle donne, insomma dei 4.000 abitanti di Snello che l'aspettavano, i ragazzi del paese le si affollarono attorno. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS per chi si vuole misurare con questo canzoniere. Importante la musichetta sotto, esatto, notare. Mix 24. Allora 800 24 00 24, 349 238 6666. Pietrangelo, rileggi il canzoniere. Quando l'automobile del sindaco di Nuova York, una bella Pontiac grigia, avuto in prestito per l'occasione, si fu fermata all'ingresso del villaggio di Snello, e il signor Impelletteri e la signora furono scesi nel frastuono degli applausi e della banda municipale, nella confusione dei carabinieri, dei motociclisti al seguito, dei giornalisti, dei fotografi, dei curiosi, degli infiniti cugini, procugini e parenti, dei borghesi, dei contadini, dei pastori, delle donne, insomma dei 4.000 abitanti di Snello che lo aspettavano, i ragazzi del paese li si affollarono intorno. Bene, allora aspettiamo le vostre telefonate. Intanto Mario, tu volevi dire una cosa? Sì, no, c'è un pezzo dell'intervista di Ricci che è fantastica, perché racconta quando uno va in TV, no? E dice, quando arrivi in studio c'è già chi ti tampona, ti spazzola, ti dà da bere. E poi dice, ti blandisce sussurrandoti bravissimo. Rimanere in equilibrio è complicato. E chi è stato normale fino al giorno prima, chi non è stato mai cagato dal portinaio in vita sua, dopo i primi applausi va in overdose. Poi succede l'incredibile. Arriva dalla moglie, torna a casa e si sente dire: hai schiacciato il dentifricio in mezzo, stai più attento. E 24 ore dopo chiede il divorzio. Comunque dice una cosa vera Ricci sull'effetto, sì, il sì. Rischio della, beh, dice, della notorietà. È così. E, intanto professore, Domenico da Sernia, ci abbiamo, scusi, Domenico da Sernia che ha indovinato, non ha indovinato il canzoniere. No. Domenico? Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. No, io mi riferivo alla parte che riguarda la politica, in effetti, laddove si vuole tagliare ad ogni costo le indennità a chi svolge un lavoro onesto e complesso. Questo è assolutamente assurdo. Quindi lei, perché il Senato resti com'è e i senatori prendano il loro stipendio e, il loro, e ci sia la doppia lettura delle leggi e sia tutto un po' più faticoso, questo dice? Sono d'accordo ad eliminare una parte del, come dire, del Senato, ma non sono assolutamente d'accordo sulla questione di non voler retribuire chi svolge un lavoro. Vabbè, ha il coraggio di dire una cosa impopolare. Va bene, è arrivato, grazie. Professor Simonelli, buongiorno. Allora, dov'era il canone ieri sera? Magari ce lo dice qualcuno in francese o un francese. Quando morì il pareta, il mondo in te. Quattro. Il mondo in te piangeva insieme. Allora, professore? Ieri sera è finito Masterpiece. È finito con la vittoria di un giovane scrittore, ma insomma il canone certo è stato investito su questa cosa, su Masterpiece, l'idea di fare un talent non frivolo. Io tra parentesi ho indovinato il canzoniere, ma ve lo dico dopo. Ah no, lo dica professore. No, per una volta, se possiamo far vincere lei, siamo contenti. Le parole sono pietre di Carlo Levi. Giusto! Bravissimo, ha vinto il libro. Ho vinto un libro. Feltrinelli. Sì. Feltrinelli. Allora, Masterpiece ha un problema, ha avuto un problema per tutto periodo in cui è andato in onda, che ieri sera è emerso anche. E quale problema? Il problema è il rapporto tra la scrittura e la televisione. Certo. Ieri a un certo punto Coppola ha detto: se leggiamo questa, se Battistone legge questa cosa sembra diversa da come è nella scrittura. E il problema è questo qua, che la televisione può rappresentare le storie, può rappresentare anche, come ha detto Carrisi, le parole. Glielo dica a Buttafuoco, ci prova tutti i giorni a trasformare la letteratura in lettura. E allora questo talent era un talent un po' sul nulla, che è stato cercato così, ha cercato così di renderlo più vivo attraversando le bellezze di Torino, che è un po' di moda raccontare le bellezze di Torino. Vabbè, ma lo rifarebbe o no? I Masterpiece? Certo. Io credo che non si possa fare. Credo che non si possa. Non un'esperienza si possa conclusa in televisione. E tu, Giovanni, cosa ne pensi? Penso noi avevamo fatto all'epoca Mixer Cultura ed era un'altra vicenda, era un confronto fra. Era un'altra storia, ma in ogni caso adesso non importa questo. No. Io penso che non funziona, non ha funzionato e non funziona. No, ma perché una brava. Parola mia, guardi, parola mia è stata una delle trasmissioni più interessanti da questo punto di vista. Una prima. Si diceva: noi non portiamo gli scrittori, portiamo le parole. Buonanotte. Insomma, comunque è un tentativo. Ha fatto un tentativo e come tale va apprezzato, ma certo. Poi bisogna capire se è andata bene o è andata male. Però non era televisione. Mi sembra che sia andata male, in televisione è meglio fare la televisione. Invece ieri verso mezzogiorno su una rete piccola, insomma, che è Sky Cult Cinema, è andato in onda un quarto d'ora di intervista, ovviamente promozionale, a Walter Veltroni riguardo al suo film su Berlino. Piccola intervista molto carina fatta da Castelnuovo, che è un bravo intervistatore, in cui le cose insomma sono state dette molte volte in questi giorni, avete parlato anche voi, ma insomma anche qualche particolare, non dico inedito ma originale. Che cosa l'ha colpito? L'idea che mi ha colpito è che Veltroni ha cominciato a fare da giovane cinema con una cinepresa che aveva vinto con un 12 al Totocalcio. E ha detto questa cosa molto divertente: se avessi fatto 13 forse la mia vita sarebbe cambiata. Anche quella degli italiani forse un pochino, non so se è meglio o in peggio, è un altro discorso. Scherzo naturalmente. Senta, professore, basta, nient'altro? Nessun altro? Avete visto? Il medico in famiglia, comunque è un gran successo. Io ho un po' qualche perplessità, perché il medico in famiglia è un cult, negli anni passati è stato non so se ricordate, era un momento in cui le famiglie si riunivano ancora davanti alla televisione alla domenica. Ma capita ancora. Sì, però insomma non c'è più la famiglia, non c'è più il medico. Vabbè, non le piace. Mario? No, io segnalo un film, Hitchcock, fantastico. Dov'era? Su Sky. Ah, tu? Niente, tu leggevi? No, ho visto una cosa ma mi sono irritato. Ah, e qual era? Non lo posso dire. No. Cioè, dai, dillo. Dai. No, perché qui c'è Giovanni davanti. Ah, dai, vabbè, allora, Giovanni ha inventato il racconto della storia in televisione. Ho visto un tentativo pietoso di raccontare la storia in televisione. Quindi... Di chi? No, non dai, lo posso. Dai, non importa. Non importa. Ad Amici, sabato sera, invece c'era Checco Zalone, da Maria De Filippi, che ha fatto l'imitazione di Gambardella, Giuseppe Gambardella della grande bellezza. Sentiamolo. Siamo tutti sull'oro della disperazione. Non abbiamo altri rimedi che verso un nuovo di compagnia, di stare insieme. Niente. A proposito, ma io e te abbiamo già fatto l'amore? Non ancora. Possibile? Sa di sì. Come ti chiami? Maria. Che nome banale. Dozzinale, se pensi di abbindolarmi con questo nome che fa riferimento alla tradizione cattolica, quasi a volerti ammantare di un'aurea di virginità, ma quale vero? Lo sanno tutti che hai fatto più battaglie tu del generale che adorno farabutta. Quanti anni tieni? 52. Che età inutile, priva di contenuti. Perché non si può dire che è vecchio, non si può dire che è giovane. Non sta manco una categoria su YouPorn per la 53. Che senso ha la vita a 53? Non ha senso. Che fai la vita? Io faccio un talent, qui c'è uno spettacolo. Talent. Maria, col talento si rischia di diventare abili. Che vuol dire? Un cazzo, ma è una frase che piace tanto agli intellettuali. Perché... Bisogna fare scelta. Ma poi diciamolo, ragazzi, sti talent show li fanno solo per esaltare la vanità di chi poi li deve giudicare. Ma quale giurato? Ma chi sono sti giurati? Luca Giurato? Argentero. Luca, ma perché non hai fatto la carriera che hanno fatto i tuoi colleghi più esili? Che hanno fatto la scelta giusta professionale. Cioè? O pizzaiolo. Pizzaiolo. Che l'Italia si fonda sulla pizza. Ma chi sta? Sabrina Perilli. Posso rettificare una cosa? Marina Milone oggi ci racconta la storia di Franco Califano, che moriva un anno fa, la storia di un grande artista che si racconta in un'intervista inedita.